Allora, le tecnologie sulle quali si basa sono le tecnologie GPS e GPRS, che grazie alla miniaturizzazione che è avvenuta negli ultimi anni degli strumenti, dei ricevitori legati a queste tecnologie, permette adesso di racchiuderle in oggetti piccolissimi e senza la necessità di avere fili o cavi che connettono i vari strumenti. Quindi il nostro servizio, il servizio Perdix, consiste in un oggetto delle dimensioni di un cellulare o più piccolo, il quale attraverso la tecnologia GPS ha le coordinate del punto in cui si trova l'oggetto e attraverso la tecnologia GPRS le comunica in tempo reale a un server internet, il quale è accessibile dagli utenti che possono vedere in ogni momento dove si trova l'oggetto.